Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Insargante e traghettatore, ben trovati. Apriamo con una notizia che riguarda la capitale. Fino a mercoledì la capitale vedrà proprio riuniti i maggiori scienziati mondiali impegnati nella lotta all'AIDS, di cui si parla ormai poco ma che rimane uno dei più grandi problemi di salute del pianeta. Questo evento vede fra l'altro una caratteristica, un evento un po' particolare. Domani ci sarà anche una serata di beneficenza organizzata nell'ambito di questo progetto sulla salute globale che porta avanti l'Istituto Superiore della Sanità, e servirà questa serata di beneficenza a finanziare borse di studio per i giovani ricercatori impegnati sulla salute globale. Bilancio integrato è una parola di cui ci avete sentito parlare con le puntate precedenti, raramente però, perché è ancora una parola nuova. Vuol dire semplicemente che un'azienda si impegna, oltre che al bilancio normale, classico, quello finanziario, ad associare ed integrarlo con quello sociale, giusto appunto. Riccardo Bani, direttore generale di Sorgenia, buongiorno direttore. Buongiorno a lei. È fra le prime società che si è impegnata a redare questo bilancio integrato, e quindi approfittiamo della sua esperienza, direttore, per chiedere che cos'è il bilancio integrato e come materialmente si traduce poi in termini operativi. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come diceva giustamente lei, il bilancio integrale è un bilancio che, rispetto al tipico bilancio in cui sono riportate tutte le principali informazioni di tipo economico e finanziario di un'azienda, aggiunge anche un'altra dimensione, che è quella più di tipo socio-ambientale. In particolare, in questa sezione vengono rappresentate delle informazioni, altre informazioni che l'azienda svolge nei confronti di tutti gli stakeholder, diciamo, di tutti i soggetti interessati, in particolare le attività svolte a favore dei propri clienti, le misure intraprese per l'attenzione verso l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori, i rapporti con le comunità locali, che poi valgono in particolare per la nostra azienda e per il settore in cui operiamo, che è quello dell'energia, la strategia commerciale dell'azienda, le attività di ricerca e sviluppo, piuttosto che l'organizzazione delle risorse, l'azione sulle politiche sui dipendenti e sulla gestione dei rapporti con i principali fornitori e i partner con cui l'azienda lavora. Ecco, direttore, ho la sensazione, mi corregga lei se sbaglio, che il bilancio integrato sia anche questo un termine di passaggio, che da qui a poco tempo, non quantifichiamolo per prudenza, diventerà il bilancio, punto, sarà l'unico bilancio, un'azienda non potrà che essere impegnata sul piano sociale. Lo condivide come visione? È così, condivido assolutamente. Peraltro dalla comunità finanziaria sta emergendo sempre di più la volontà e l'interesse nella valutazione dell'operato di un'impresa, oltre all'analisi dei dati economico-finanziari, anche come l'azienda si comporta appunto su questi altri temi, che sono altrettanto rilevanti, anzi io dico per l'azienda forse più rilevanti, che sono appunto il rapporto con tutti gli stakeholder, in particolare il nostro settore, con i temi della sostenibilità ambientale. Lei ci sta dicendo che le banche sono quindi più, come dire, più vicine a quelle aziende che dimostrano l'adeguata attenzione alla responsabilità sociale. Sì, è così, e il tema, sono convinto, sarà sempre più sentito man mano che andremo avanti nel tempo. Bene, grazie e complimenti per aver aperto un varco importante con la sua Sorgenia, direttore. Buona giornata. Grazie a lei, buongiorno a tutti. Rimaniamo nell'ambito della responsabilità con una notizia tutto sommato curiosa e divertente. C'è un'iniziativa sul web che si chiama giocareresponsabile.it ed è di Lottomatica, l'azienda italiana che gestisce il gioco. Bene, questa iniziativa ha l'obiettivo di assicurare a chi si ammala di gioco di un'assistenza psicologica, relazionale o anche legale quando ci troviamo di fronte ad eccessi di gioco non più incontrollabili. C'è un team di psicologi che gestisce questo contatto ed è affiancato da uno staff di consulenti per trattare gli aspetti specifici, appunto psichiatria, psicoterapia o addirittura avvocati veri e propri. Ecco un altro esempio di responsabilità sociale d'impresa, visto che a sostenere finanziariamente questo sito, questa iniziativa, è proprio Lottomatica, che è l'azienda che, come dire, fa profitto proprio sul gioco. È tutto per oggi, grazie di averci seguito. Vi ricordo che ferribot@radio24.it è l'indirizzo dove potete scriverci. Redazione grazie ad Anita Panizia, in regia a Carmelo Lauricella. Alla prossima.